America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, chiudiamo con questa ricorrenza americana che ha fatto partire festeggiamenti per il 100° anniversario della nascita di Frank Sinatra. Ecco, devo dire, se penso a Frank Sinatra ci sono tre cose che mi hanno colpito. La prima è la prima canzone che davvero ho ascoltato di Frank Sinatra e che mi è piaciuto. Ero un bambino e fu Strangers in the Night, questa canzone che io ho trovato molto bella e che invece Frank Sinatra non amava moltissimo, la trovava forse un po' troppo commerciale, ma è stata una canzone importantissima per lui perché è stata incisa nel 1966 e subito dopo un periodo in cui lui aveva avuto non poche difficoltà. Invece con questa canzone, con Strangers in the Night, ritrova la grinta d'un tempo, vince il Grammy Award nel 1967 e diventa una canzone che vende oltre 1 milione di copie con il singolo. E quindi diventa ufficialmente un platinum record e pensate, è stato l'unico platinum record nella carriera di Frank Sinatra. Poi una volta mi è capitato di incontrarlo e lì ho visto davvero il personaggio magnetico, il personaggio isterico. Era in un albergo subito dopo la cena del NIAF, l'associazione degli italoamericani che lo aveva premiato, e lui si era perso in questo albergo. Eravamo a un terzo piano perché era il livello da cui si usciva da questo salone. Ci vediamo improvvisamente, ero con dei colleghi, Frank Sinatra davanti con sua moglie, e lui era rimasto un po' perplesso perché sperava di infilarsi in un corridoio dove lo avrebbero protetto. E lo salutiamo, lui lì per lì saluta, ma si vede che è molto nervoso e dice: ma dove siamo? Si rivolge alla moglie: come mai siamo qui? Io non posso stare in mezzo a questa gente. E apre la porta delle scale di servizio e sparisce con la moglie in queste scale di cemento. Ecco, devo dire, si è visto, si vedeva, si toccava con mano l'uomo con una grinta straordinaria anche allora, quando aveva ormai probabilmente intorno agli 82 anni, forse un paio d'anni prima della sua morte. Infine, una cosa che mi ha sempre colpito di lui è che, pur essendo italoamericano, gli italoamericani, devo dire, erano un po' razzisti, soprattutto quelli della sua generazione, eppure lui era straordinariamente aperto nei confronti degli afroamericani e li aiutava. Ecco, c'è questa storia in particolare che mi ha colpito e che voglio condividere con voi. C'è stato un concerto a Carnegie Hall in cui si dovevano raccogliere dei fondi per il movimento per i diritti civili, e questo concerto c'era Martin Luther King, c'era Lena Horne, e avevano chiesto a Frank Sinatra di intervenire. Frank Sinatra era a Hollywood dove stava girando un film, riesce a trovare una pausa, prendere un aereo, arrivare a New York. Dall'aeroporto va direttamente a Carnegie Hall senza neanche provare, va sul palco e canta una canzone che ha dato i brividi alla sala: Old Man River. Old Man River, that old man river, he must know something, but he don't say nothing. He just keeps rolling, keeps on rolling. I watched him through the years as he became more deeply involved with black music, certainly with jazz, and all the things that he did in relationship to race and progressive social agenda. Questo è Harry Belafonte, intervistato dalla HBO, la rete televisiva via cavo americana, che racconta di questa serata. Lui c'era e soprattutto porta la testimonianza di come Frank Sinatra fosse davvero aperto nei confronti degli afroamericani e li avesse aiutati, e parla davvero con sentimento e commozione. Poi il figlio, Frank Jr., sempre in questo documentario, ricorda come nel pubblico, poco lontano dove era seduto lui, c'era anche proprio Martin Luther King in lacrime che ascolta questo cantante bianco che si è dedicato alla causa degli afroamericani. We observe today not a victory of party, but a celebration of freedom. Ecco, John Kennedy diventa un amico o comunque una figura importante nella vita di Frank Sinatra. Perché? Qual era il collegamento? Peter Lawford, che faceva parte del gruppo dei Rat Pack, era sposato con una sorella di John Kennedy. E dunque a un certo punto Peter Lawford, quando Kennedy era ancora senatore, li presenta. E quindi Sinatra conosce Jackie Kennedy, conosce il senatore, si frequentano, si vedono. E questa amicizia cresce nel momento in cui John Kennedy decide di correre per la presidenza. E qui c'è un fatto che è diventato quasi storico, molto interessante. Che succede? Che nel 1960 Joseph Kennedy, che era il padre di John Kennedy ed era un po' il grande burattinaio, era quello che aveva elaborato la carriera politica del figlio, era stato ambasciatore a Londra, era molto legato a Franklin Delano Roosevelt, chiama a un certo punto Sinatra e gli dice che ha bisogno del suo aiuto per spianare la strada nelle elezioni del 60 contro Richard Nixon. Dice: se tu potessi fare una chiamata a degli amici tuoi e far convogliare il voto dei sindacati su John, beh, questo ci aiuterebbe molto. Cosa che Frank Sinatra fa immediatamente. Chi chiama? Chiama Sam Giancana, personaggio leggendario nella mafia americana, e Giancana assolutamente si butta ad aiutare Frank Sinatra, mobilita i sindacati e dunque in qualche modo Frank Sinatra, grazie all'aiuto che aveva avuto dalla mafia, ha contribuito a questa elezione, alla vittoria poi che ci fu di John Fitzgerald Kennedy. Cosa succede? Quando Kennedy è al potere, nomina il fratello Bobby Kennedy al Dipartimento della Giustizia e a quel punto non ci sono più compromessi, c'è un voltafaccia piuttosto sgradevole, perché il Dipartimento della Giustizia fa partire un'inchiesta proprio contro Giancana, il quale viene perseguitato e Giancana stesso poi finirà ucciso. È stato un momento delicato nella vita di Frank Sinatra, anche lui si è sentito un po' allontanato dai Kennedy in questo periodo, ed è un periodo in cui succedono molte cose tristi, perché poi a un certo punto John Kennedy viene assassinato e Frank Sinatra ne soffre moltissimo, e più avanti muoiono Martin Luther King, Bobby Kennedy e viene rapito anche suo figlio, e diventa un caso nazionale questo rapimento del figlio di Frank Sinatra. In tutto questo continua a cantare, continua a sperimentare, e voglio farvi ascoltare come chiusura di questa sua carriera e di questa sua storia un concerto che fece addirittura nel 1993 con Tony Bennett. Start spreading the news, you're leaving today. Tell him, Frank, I want to be a part of it. New York, New York. Canzone storica, anche questa canzone immortale. Pochi anni dopo, il sipario cala definitivamente sulla vita di Frank Sinatra. Muore a Los Angeles per un attacco di cuore il 14 maggio del 1998. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno, beh, ve ne ho parlato in apertura ma non ve l'ho ancora fatta sentire. Non posso che chiudere con Strangers in the Night. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!